24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati all'appuntamento quotidiano con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il rapporto europeo sulla sostenibilità dei bilanci pubblici, pubblicato dalla Commissione, che avverte l'Italia: occorre restare nel solco del risanamento. Spagna e Cipro si trovano a rischio di stress di bilancio nel breve periodo. Sempre la Commissione ha lanciato le priorità per l'agenda digitale 2013, mentre diverse statistiche lanciano l'allerta. Italia nelle posizioni peggiori in Europa per rischio povertà, bassa fecondità e investimenti in ricerca. Oggi vi spiegheremo anche come l'Europa spenderà il premio in denaro del Nobel. È essenziale che l'Italia si mantenga fedele al programma di risanamento ed è essenziale che vi sia continuità nelle politiche di bilancio anche dopo le elezioni. Ad affermarlo il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn, rispondendo a una domanda sui rischi di instabilità politica in Italia con le elezioni. Sentiamo Rehn. È senza dubbio essenziale e fondamentale, come abbiamo scritto nel rapporto sulla sostenibilità dei conti, che l'Italia si mantenga fedele al programma di risanamento, che mantenga la sua sostenibilità fiscale. Tra breve raggiungerà il pareggio strutturale. Vista la tendenza all'invecchiamento della popolazione e l'elevato debito pubblico, è essenziale che l'Italia mantenga il proprio percorso di aggiustamento di bilancio. Ed è perciò essenziale che vi sia continuità nelle politiche di bilancio dell'Italia. L'Italia non appare esposta a rischi di tensioni sulla sostenibilità dei conti pubblici nel breve termine, secondo la Commissione, posto che il Paese dia piena attuazione alle ambiziose misure di risanamento previste sulle sue finanze. Questa è la sintesi delle valutazioni sulla penisola contenute nel rapporto 2012 sulla sostenibilità dei bilanci pubblicato dalla Commissione europea. Sempre secondo lo stesso rapporto, l'Italia non affronta rischi di stress di bilancio nel breve termine, ci sono rischi medi per il medio periodo, mentre diventano scarsi in una lunga prospettiva, condizionati alla piena applicazione dell'ambizioso consolidamento in corso. E aggiunge il rapporto: grazie agli sforzi di consolidamento in Italia, il surplus per il 2013 è atteso al 5,1% del PIL, percentuale più alta dal 2000 quando era al 4,5%, e anche sopra la media dell'1,8% registrata nel periodo 1998-2012. La previsione per l'avanzo 2012 è del 4,1%. Conclude il rapporto: sulla base delle politiche attuali, il debito italiano scenderà nel medio termine e oltre, ma serve forte determinazione per evitare scostamenti dagli obiettivi. L'Italia deve continuare in modo risoluto ad applicare le misure che aiutano la sostenibilità e riducono il debito pubblico. Infine, grazie alla riforma delle pensioni, in Italia il costo dell'invecchiamento della popolazione è sceso di 0,8 punti di PIL e i rischi per i conti ad esso connessi sono limitati, ad affermarlo la Commissione europea. Ma non c'è solo l'Italia nella relazione comunitaria, solo Spagna e Cipro si trovano a rischio di stress di bilancio nel breve termine. Per quanto riguarda Madrid, il commissario Olli Rehn ha indicato che non c'è alcuna richiesta di nuove misure di bilancio, l'importante è che la Spagna continui ad attuare quanto stabilito e concordato a livello europeo. Sentiamo ancora Rehn. Spagna e Cipro hanno degli squilibri macroeconomici molto seri, specialmente nel settore finanziario. In questo senso, quindi, la nostra conclusione sulla Spagna, e non ci sono sorprese visto quanto successo nel paese da primavera, è che in Spagna lo stress sui conti pubblici si è ridotto grazie alle misure prese negli ultimi due anni. Nonostante ciò, lo stress sui conti pubblici resta elevato e l'applicazione del piano di risanamento prenderà molto tempo prima di ridurre i rischi nel breve periodo per i conti. Riguardo il prossimo anno, è essenziale che la Spagna migliori la situazione della finanza pubblica e prosegua nel consolidamento dei conti pubblici. Per Cipro invece sono in corso i negoziati per il prestito europeo. Nell'analisi della Commissione fatta ai fini della sorveglianza preventiva tra i paesi comunitari non sono presi in considerazione i paesi già salvati dai fondi IFSF e ISM. La promessa del presidente della BCE, Mario Draghi, di fare qualunque cosa per salvare l'euro insieme al piano antispread è stato l'avvenimento più importante del 2012, lo afferma il Financial Times in un editoriale. E ora andiamo a vedere come sono andati i mercati. Seduta positiva per le borse europee che scommettono sul raggiungimento di un accordo sul fiscal cliff negli Stati Uniti. Milano e Madrid tra le migliori. Nella capitale spagnola l'Ibex è balzato dell'1,5%, a Piazza Affari il FTSE MIB ha archiviato la sesta seduta consecutiva di rialzi. In netta ascesa le banche, con il differenziale BTP punta a quota 305 punti base. Il nuovo membro del consiglio esecutivo della BCE, lussemburghese Yves Mersch, sarà responsabile, insieme al vicepresidente Vitor Constanzio, della costruzione dell'autorità europea di vigilanza bancaria, a renderlo noto la stessa BCE. E la supervisione unica delle banche comunitarie può essere un punto di svolta nella soluzione delle nostre sfide attuali e contribuirà a restaurare la fiducia nel settore bancario dell'Eurozona. Ad affermarlo il presidente della BCE, Mario Draghi, durante un'audizione davanti alla Commissione economico-finanziaria dell'Europarlamento. Secondo Draghi, la supervisione unica delle banche aiuterà a rimettere in sesto i prestiti interbancari e i flussi finanziari tra stati con effetti tangibili sull'economia reale. Quello che si sta chiudendo non è stato un anno facile. È stato un anno in cui i legami tra i paesi dell'area euro sono stati messi alla prova. Tuttavia è stato anche un anno in cui è stata formulata una visione di lungo termine per l'unione monetaria. È un anno in cui questa visione ha iniziato a tradursi in realtà. Perciò chiudiamo il 2012 con un tono positivo, con il rilancio della visione a lungo termine, con i passi in avanti compiuti dai singoli stati e dalle istituzioni europee verso l'unione economica e monetaria e recentemente con l'accordo unanime all'Ecofin circa il meccanismo unico di sorveglianza bancaria. Le prospettive economiche restano impegnative. Ci attendiamo che la debolezza dell'economia dell'area euro prosegua anche nel 2013, con una ripresa molto graduale nella seconda metà del prossimo anno. L'Europa non perda di vista il senso di urgenza, perché nell'economia globale nessuno aspetta nessuno. I tempi lunghi europei possono dunque trasformarsi in un grosso svantaggio competitivo. A scriverlo in un intervento sul Sole 24 Ore è stato il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi. La Commissione europea ha dato il via libera provvisorio alla ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena per 3,9 miliardi. Bruxelles ha approvato l'operazione in base alle norme sugli aiuti di Stato per ragioni di stabilità finanziaria. La misura consentirà alla banca di conformarsi alle raccomandazioni dell'autorità bancaria europea. L'approvazione è subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione entro i 6 mesi successivi alla decisione. Sentiamo. 3 miliardi e 900 milioni di euro in arrivo e Monte dei Paschi vola in borsa. La Commissione europea, dopo aver tenuto in sospeso Rocca Salimbeni per mesi, ha dato il suo benestare al piano di aiuti di cui la banca necessita. Così Siena potrà ricevere i Monti Bond, vale a dire le obbligazioni sottoscritte dal Tesoro per l'adeguamento alle raccomandazioni dell'EBA, l'autorità bancaria europea, che dallo scoppio della crisi, anche attraverso i vari stress test condotti periodicamente, controlla che tutti gli istituti di credito dell'Eurozona implementino le riserve di capitale per contrastare l'esposizione a rischio sovrano. Ma nella sostanza Monte dei Paschi paga ancora il forte sacrificio economico, finanziario ed industriale fatto con l'acquisizione nel 2007 di Banca Anton Veneta. In poche parole, Monte dei Paschi non è riuscita, come hanno fatto le altre banche italiane, a rafforzare autonomamente i propri requisiti patrimoniali, il famigerato Core Tier 1 al 9%, secondo quanto chiesto dagli organismi di vigilanza europei. Così ha dovuto formalizzare la richiesta di aiuto allo Stato, fermo restando il parere positivo di Bruxelles, che lo ha accordato temporaneamente e ad una condizione: che Alessandro Profumo, da marzo presidente a Siena, si impegni a presentare entro 6 mesi un piano di forte ristrutturazione della banca. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa monitorerà da vicino la situazione dell'espansione delle colonie e le sue implicazioni più ampie e agirà di conseguenza. A riferirlo Maja Kocsancsics, portavoce dell'alto rappresentante per la politica estera Catie Ashton, dopo gli annunci di Israele sulla costruzione di nuovi alloggi a Gerusalemme Est. Non voglio che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea, ma una sua uscita è immaginabile. A dirlo è stato il primo ministro britannico David Cameron, parlando ai deputati, secondo quanto riporta il Daily Telegraph. Durante un intervento alla Camera dei Comuni, alla domanda se fosse immaginabile un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, il primo ministro conservatore ha risposto: «Ogni scenario è immaginabile, siamo artefici del nostro destino, possiamo fare le nostre scelte. Tuttavia», ha aggiunto, «un'eventuale uscita non è la mia preferenza». La Commissione europea ha lanciato le priorità per l'Agenda Digitale 2013, tra queste ha annunciato la commissaria responsabile del settore Nili Kroes l'aumento degli investimenti in banda larga con la definizione di un nuovo e stabile ambiente normativo, in particolare puntando su un accesso alla rete non discriminatorio e nuove metodologie di costi per l'accesso all'ingresso delle reti. Aumentano gli italiani a rischio povertà o esclusione sociale. L'indicatore Europa 2020 è cresciuto dal 26,3% del 2010 al 29,9% del 2011. La variazione negativa di 3,3% punti percentuali è la più elevata registrata in Europa, è quanto emerge dal rapporto sulla coesione sociale Istat, INPS e Ministero del Lavoro. L'Italia non è più maglia nera in Europa per lo scarso numero di figli, siamo al quarto posto per bassa fecondità nell'Unione a 15 e al decimo nell'Unione a 27. Il numero di figli per donna è in lieve aumento ed è più alto a nord, ma si diventa mamme sempre più tardi, e quanto si rileva nell'annuario statistico italiano 2012 dell'Istat. Sempre secondo l'Istat, l'Italia è fanalino di coda nell'Unione per le spese in ricerca, con un investimento pari all'1,26% del PIL contro la media del 2% in Europa. Complessivamente nel 2009 l'Italia ha investito in ricerca 19.209 milioni, considerando i finanziamenti da parte di imprese, istituzioni no profit e università. Dopo l'Italia si collocano Ungheria, Lituania, Polonia, Malta, Bulgaria, Cipro, Slovacchia, Romania e Lettonia. A guidare la classifica in Europa ci sono Finlandia, Svezia e Danimarca. Sarà presentato oggi il nuovo giro di vite dell'Unione Europea contro il tabagismo, che uccide nel vecchio continente 700.000 persone l'anno. Nella proposta di direttiva, secondo fonti comunitarie, è previsto un drastico aumento dello spazio per gli avvertimenti con uso di immagini shock, che dovranno coprire almeno il 75% della superficie del pacchetto, e i singoli stati membri saranno liberi di adottare il cosiddetto pacchetto anonimo già adottato in Australia. Inoltre sarà standardizzato il prodotto, sarà cioè ammesso solo il formato king size, e dovranno sparire le sigarette slim o super slim, nonché i pacchetti da 10 particolarmente diffusi tra i giovani. Il premio Nobel per la pace ricevuto dall'Unione Europea finanzierà 4 progetti a sostegno di oltre 23.000 bambini siriani, colombiani, congolesi e pakistani vittime di guerre e conflitti. La dotazione del premio è di 8 milioni di corone norvegesi, pari a poco più di 1 milione di euro, che l'Unione Europea ha deciso di integrare portandola a 2 milioni di euro. Era questa l'ultima notizia, è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.